Le piacevoli notti, libro secondo, di Giovan Francesco Straparola. Tredicesima e ultima favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Renzo Clerico. Vicenza, senza aspettare altro comandamento, con tai parole l'ordine seguitò. Favola tredicesima. Pietro Rizzato, uomo prodigo, impoverisse, e trovato un tesoro, diventa avaro. La prodigalità è un vizio che conduce l'uomo a peggior fine che l'avarizia, perciò che il prodigo consuma il suo e quello d'altrui, e fatto povero, non è ben veduto da alcuno, anzi tutti lo fuggeno, come persona insensata, e dileggiano, prendendo gioco di lui. Sì, come intravenne ad un Pietro rizzato, il quale, per la sua prodigalità, venne in grandissima miseria. Indi, trovato un tesoro, diventò ricco e avaro. Dico adunque che già nella città di Padova, famosissima per lo studio, abitava nei passati tempi un Pietro rizzato, uomo affabile, di bellezza prestante e di ricchezza sopra ogni altro abbondevole, ma era prodigo, perciò che donava agli amici or questa o quell'altra cosa, secondo gli parea convenire al grado loro. E per la sua troppa grande liberalità aveva molti che lo seguitavano, né mai li mancavano ospiti alla sua mensa, la quale era sempre abbondantissima di delicate e preziose vivande. Costui, tra l'altre sue pazzie, ne fece due, delle quali l'una fu che, andando un giorno con altri gentiluomini da Padova a Venezia per Brenta, e veggendo che ciascaduno di loro s'esercitava chi in sonare, chi in cantare, e chi in altre cose facendo, egli, per non parer tra loro ocioso, si mise con i danari a far, come si dice, passarini, e gettavli ad uno nel fiume. L'altra, che è di maggiore importanza, fu che, essendo egli in villa e venendo a lui molti giovani per corteggiarlo, e veggendogli da lontano, per far loro onore, fece metter fuoco in tutte le case di suoi lavoratori. Volendo adunque Pietro contentare il suo sfrenato appetito in tutte le cose a lui possibili, vivendo dissolutamente e senza alcun freno, presto gli vennero le sue gran ricchezze a meno, e insieme gli mancarono tutti gli amici che il corteggiavano. Egli, per lo passato tempo, quando era nella sua felicità, aveva nodrito molti famelici. Ora che egli è affamato e sitibondo, non trova alcuno che gli voglia dar da mangiare o da bere. Egli vestiva i nudi, ora niuno gli copre la sua nudità. Egli aveva cura degli infermi, ora niuno ha cura della sua infermità. Egli accarezziava tutti, onorandogli sommamente. Ora è mal veduto e lo fuggeno come contagiosa peste. Laonde, essendo giunto il miserello all'amare crudel passo di povertà, ed essendo nudo e infermo, e vessato dal flusso in tal maniera che n'andava il sangue, menava pazientemente la misera e infelice sua vita, ringraziando sempre Dio che dato gli avea conoscimento. Avenne che, andando un giorno il meschinello pieno di rogna, tutto sozzo, ad un certo luogo roinato, non già per solazzare, ma per diporvi giù il natural peso del ventre, e guardando finalmente in un pariete per antichità guasto, vidde per una gran fissura risplendere oro. E rotto quel pariete, trovò un gran vaso di terra pieno di ducati d'oro, e portatolo a casa nascosamente, cominciò a rispendere, non profusamente come prima, ma secondo il suo bisogno e moderatamente. Gli amici e cari compagni, che continuamente il corteggiavano nel tempo che il viveva felicissimamente, avvedutisi che si era fatto ricco, pensarono di ritrovarlo prodigo come prima, e andatisene a lui, il cominciorono carezzare e corteggiare, pensando tuttavia di vivere alle altrui spese. Ma la cosa non gli venne come essi voleano ed era il desiderio loro, perciò che non solamente non lo trovarono pazzo e largo nel spendere, scioccamente donando il suo e facendo bacchetti, ma conobbero apertamente lui esser divenuto savio e avaro. E addimandato dagli amici e compagni come era diventato sì ricco, gli rispondeva che se volevano ancora essi diventar ricchi, bisognava prima che vuotassino il sangue dal ventre suo, come aveva fatto egli, dinotandogli che prima aveva sparso il sangue che trovato avesse li danari. Allora gli sopradetti compagni e amici, vedendo che non vi era allegrezza di cavar altro costrutto da lui, si partirono. Fine della storia. La favola molto piacque ad ognuno, perciò che apertamente dimostrava che gli amici non nelle cose prospere, ma nelle adverse provarsi debbono, e ogni estremo è vizioso. Ma poscia che tutti tacquero, la signora ordinò che Vicenza con l'enimnia seguisse, ed ella bandalzosamente così disse: «Vorrei saper da voi, signor mio accorto, qualcosa è questa mia, nato bisnato, et positus in ligno, dopo morto, senza comar né prete batteggiato. La vita breve, e spesso more a torto, né forse mai commesse alcun peccato. Piccioli, grandi, vecchi e junioribus sono buoni pro nobis peccatoribus». Malagevole fu giudicato il raccontato enimma, ma la discreta Vicenza in tal maniera lo espose: «Il bisnato è l'uovo, di cui senza comare nasce il pollo, il quale non vive lungamente e spesso muore senza mai aver peccato, cioè senza aver mai calcata la gallina. E piccoli o grandi che siano, sono buoni per noi». Maravigliosa fu la bella esposizione del difficillimo enimma. Ne fu veruno nella grata compagnia che sommamente non lo comendasse. E perché la rosseggiante aurora incominciava a parere, e già era terminato il carnessale, e sopraggiunto il primo dì di quadragesima, la signora, voltatasi all'onorevol compagnia, con piacevol viso così disse: «Sappiate, magnifici signori e amorevoli donne, che noi siamo al primo dì di quaresima, ed oramai dappertutto si odono le campane che ne invitano le sante prediche e a fare la penitenza dei nostri commessi errori. Laonde mi par cosa onesta e giusta che in questi santi giorni poniamo da canto i dilettevoli ragionamenti e gli amorosi balli e soavi suoni, gli angelici canti e le ridicolose favole, ed attendiamo alla salute delle anime nostre. Gli uomini parimenti e le donne, ch'altro non desideravano, il voler della signora sommamente comendarono». E senza far accendere i torchi, perciò che ormai era il giorno chiaro, comandò la signora che ciascuno se n'andasse a riposare, né più alcuno si riducesse per conto di compagnia all'usato concistoro, se prima non gli era imposto da lei. Gli uomini, tolta buona licenza dalla signora e dalle damigelle, e lasciatele in santa pace, ritornarono agli alloggiamenti loro. Fine della tredicesima e ultima favola della tredicesima notte. Fine de Le piacevoli notti di Giovan Francesco Straparola.